Grazie Paola. Siamo all'ultimo intervento, è stata lunga, sono tanti. Abbiamo lasciato per ultimo Domenico Finiguerra, che è un nostro vicino di casa, nel senso che noi siamo del Folletto 25, mi metto vicino perché siccome lui è di un paese a 3 km da Abbiategrasso e è uno che fa delle cose serie, noi ci vogliono sgomberare da Abbiategrasso e siamo d'accordo che quando ci sgomberano da Abbiategrasso andiamo al cassinetto a occupare, in modo che non ci... lui è il sindaco, quindi vedi, sono amico e anche qua a Leoncavallo puoi dire che è vero, no? Sì, c'è la roncola in mano. No, vabbè, a parte gli scherzi, con Domenico abbiamo condiviso una serie di battaglie territoriali importanti, secondo noi. Nel senso, appunto, lo dicevo prima, il discorso della superstrada, il discorso adesso c'è in ballo che vogliono fare l'inceneritore. E Domenico è anche un po' isolato nel territorio, perché veramente è uno... un po' come erano i sindaci in Ottavo, speriamo che non parlano alla fine di quelli lì, che poi dopo anche lui a un certo punto cambia idea, ma invece altri sindaci che facevano in Ottavo già adesso, in O tangenziale, hanno fatto anche loro quel giochetto lì, che a un certo punto dicevano no, vabbè, basta che non passa vicino a casa mia, così. Domenico non l'ha fatto. Ma oltre a questo ha fatto anche delle cose più importanti che facciamo raccontare a lui. Da quando c'è lui sindaco penso che non si sia più costruito nulla, giusto? Non sbaglio, o poca roba. E vabbè, raccontaci un po' questa esperienza e magari ci spiega anche come la vede su No Expo e insomma come sta andando un po' di cose sul territorio.